Emma, studenti di sinistra, un aggiornamento sulla questione universitaria, quindi come vi siete organizzati, come state facendo a fare lezioni, se questa è una cosa facile, se diciamo è disponibile a tutti e tutte. Allora, intanto ciao a tutte e a tutti. Per ora l'Università di Firenze, come tante altre università d'Italia, si sta organizzando per garantire l'attività didattica, quindi per ora tutte le lezioni sono garantite in via telematica e anche gli esami vengono garantiti in questa modalità. Quindi questa è innanzitutto una cosa sicuramente fondamentale. Anche per quanto riguarda, diciamo, le lauree, sì, principalmente le lauree, è stata garantita la sessione che appunto si sarebbe dovuta essere ad aprile, e si è stata inoltre introdotta la possibilità di prorogare per motivi gravi o comunque legati a questa situazione problematica, di prorogare la laurea tra fine maggio e inizio giugno. Quello che però sicuramente, cioè, ci sono comunque chiaramente dei problemi legati a questa situazione. Innanzitutto quello che noi stiamo cercando di sottolineare sia a livello locale ma anche a livello nazionale è che ora come ora gli studenti, come tanti altri, cioè come tutta la popolazione, sta avendo problemi sicuramente legati al reddito, nel senso che la famiglia, ovviamente tutte le famiglie ora si trovano in difficoltà a livello lavorativo. Gli studenti che di solito riescono a sostenersi in parte con dei lavoretti, in questo momento si trovano senza entrate, quindi quello che stiamo chiedendo è innanzitutto che la seconda rata venga annullata. E questo c'è già stato un punto positivo, nel senso che il pagamento della seconda rata è stato prorogato. E inoltre un'altra cosa che riteniamo che debba essere fatta, riteniamo fondamentale, è che le borse di studio vengano garantite, quindi sia nei termini della seconda rata, perché la borsa di studio viene suddivisa nel corso dell'anno in due pagamenti, e quindi che appunto gli studenti che in teoria dovrebbero raggiungere un certo numero di crediti per la seconda rata, gli studenti del primo anno di un corso sia triennale o magistrale. Quindi quello che chiediamo appunto è che vengano eliminati questi criteri di merito sia per la seconda rata che per la borsa del prossimo anno. Una notizia positiva è che c'è stata una votazione di ieri del CNSU che appunto si è tornato favorevole all'idea di abbassare, innanzitutto di abbassare, cioè però vai la quantità di crediti richiesti, che appunto dipendono da una legge nazionale. Quindi, insomma, in questo senso ci stiamo muovendo per far sì che il diritto allo studio venga comunque garantito in questa situazione che ovviamente è problematica, Ecco, sarebbe problematica nei per quanto prossimi. riguarda mense e alloggi, proprio sul tema del diritto allo studio, come si sono organizzati, si Allora, riesce a per ora mantenere tutti i parametri di sicurezza e ci allo stesso tempo i sono. servizi? Sì, scusami. Ci sono dei problemi un po' relativi più che altro alle residenze, perché ovviamente sono rimaste tutte aperte come il servizio mensa che fa solo ad asporto, per chiaramente garantire, insomma, per evitare assembramenti. Però i problemi più che altro ci sono per chi, tutta quella serie di studenti che a breve dovrebbe, come ad esempio chi è andato fuori corso, chi si laurea, chi gode di una borsa di studio semestrale, quindi non tutto l'anno accademico, tutte queste studentesse e studenti qua dovrebbero ora iniziare a pagare l'alloggio, e questo ovviamente è infattibile. Quindi quello che stiamo chiedendo alla Regione Toscana è che garantiscano l'alloggio gratuito a queste studentesse e questi studenti, e garantiscono anche un servizio di ristorazione gratuito. Ok, e, riguardo invece agli organi decisionali e gestionali dell'università, che nello specifico mi riferisco al Senato e al Consiglio di amministrazione, ci sono state delle sedute straordinarie, seppur in remoto, vi è stata la possibilità di partecipare, di portare un apporto alle decisioni prese. seppur immagino comunque poi i rappresentanti degli studenti non riescono ad avere un peso sufficiente, però ecco, è venuto a mancare anche quello oppure no? No, diciamo che quello si sta svolgendo abbastanza normalmente, penso che le sedute ci sono telematiche, però comunque sì, diciamo, è garantita comunque quello spazio, pur ovviamente nei limiti, nel senso che sì, come dicevi, il peso della voce studentesca è molto, molto limitato, però comunque siamo riusciti a mantenere un dialogo e a far sentire, diciamo, le richieste e le necessità degli studenti. Un'ultima domanda proprio invece sugli studenti di sinistra, nonostante la impossibilità a uscire di casa, sono molto attivi anche con alcune proposte, puoi farci un po' un elenco? Sì, allora, l'idea ovviamente parte un po' dal fatto che nonostante questa quarantena, questo non debba voler dire rimanere ognuno chiuso nel suo guscio, quindi abbiamo iniziato a lanciare un po' di idee, tra cui questa campagna Ecce Quarantena, che appunto riprende un po' la rassegna cinematografica che facciamo ogni anno, che si chiama Ecce Pizze. Però ovviamente la rende telematica online, e quindi ad esempio abbiamo iniziato a fare questi incontri serali in cui proiettiamo, cioè ognuno riesce a proiettare, a vedere lo schermo di qualcuno che proietta appunto un film, e poi c'è una discussione, un dibattito comune. Quindi questo è un esempio, poi stiamo cercando comunque di dare molti, molti input, ad esempio appunto di siti dove ci sono film, libri gratuiti, quindi stiamo cercando un po' di creare momenti di condivisione, di confronto, di approfondimento. Ecco, scusa, ritorno un attimo sul tema, mi è venuto in mente sul tema dell'alloggio per gli studenti e non tanto per quanto riguarda le case dello studente, bensì per gli affitti in città. È prevedibile che vi sia un grosso cambiamenti grossi nel mercato dell'immobiliare e quindi di conseguenza anche grossi cambiamenti per tutti gli studenti fuori sede che invece non hanno accesso alle borse di studio e devono pagare l'affitto. Il discorso era già stato iniziato da studenti di sinistra, così come anche da altre persone. Come pensate che evolverà? Allora, sicuramente, ora come ora, sicuramente si prospettano delle problematiche non facili, perché ovviamente anche per le motivazioni di cui parlavo prima, gli studenti saranno, quelli non borsisti, saranno costretti a dover pagare degli affitti senza avere più delle entrate che prima avevano. Quindi sicuramente crediamo che le istituzioni comunali e regionali debbano affrontare questo problema. Dall'altro lato sarà anche interessante probabilmente vedere come la soprattutto Firenze, città fortemente turistica, e come il crollo che ovviamente c'è, ci sarà, continuerà ad esserci per un certo periodo, il crollo del turismo, come questo appunto avrà effetti sul mercato invece degli affitti. Ok, invece sulla situazione generale, politica, diciamo, italiana, quindi tutte le misure messe in campo, vi siete fatto un'idea? Avete avuto modo di confrontarvi? Avete un Sì, comune? scusa, no, stai Prego, prego. dicendo. Sì, diciamo che ci stiamo confrontando, ovviamente la situazione è la prima volta che la nostra generazione si ritrova in una situazione del genere, quindi è anche difficile capirci qualcosa di chiaro. Ovviamente ci sono delle questioni su cui senza dubbio ci ritroviamo tutti d'accordo, ad esempio sul fatto che vediamo un po' che c'è una certa tendenza a responsabilizzare i singoli, ma in maniera quasi forzando un po' questa questione, ovviamente giusta e comprensibile, della paura del contatto e del contagio, però con una certa, diciamo, ipocrisia da parte delle istituzioni del governo, che dall'altro lato, pur impedendo appunto di uscire anche per passeggiare, in alcune regioni ci sono state ordinanze di questo tipo, dall'altro lato però non è riuscito a imporre una chiusura delle fabbriche, dell'apparato industriale, appunto abbastanza forte, nel senso che alcune alcune industrie sono state chiuse, però rimane comunque abbastanza, diciamo, plateale il fatto che Confindustria comunque è riuscito in un certo termine a porre, diciamo, il suo volere. Bene, hai qualcosa da dire a studenti e studentesse che ci stanno ascoltando? Ultima. Ma allora vorrei dire a tutte e tutti che sappiamo da studenti, come siamo anche noi, che questo momento è sicuramente complesso, difficile, e soprattutto per i fuori sede ci ritroviamo sole, soli, ad affrontare la nostra vita, il nostro percorso universitario, però può essere anche un momento in cui magari si rende un po' più palese quello che spesso cerchiamo di dire all'interno dell'università, cioè che appunto proprio adesso che viene a mancare quello spazio fisico, che è lo spazio che dovrebbe essere, che potrebbe essere lo spazio di incontro e di confronto, forse proprio ora è più facile capire come effettivamente questo spazio potrebbe essere utilizzato in maniera che ha del potenziale enorme. Adesso che ci viene a mancare, capiamo che effettivamente questo spazio non deve servire solo per esami e lezioni, ma che appunto può essere tanto altro. Bene, grazie. Allora, buona Grazie a quarantena. voi. Buona quarantena a tutti e a tutti.